America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. More talked about in the U.S. media than the most ridiculous celebrity baby name and the royal wedding combined. It's called a polar vortex. The polar vortex. The polar vortex. The polar vortex. More frightening than your worst nightmare. It's a whirlpool of dense, frigid Arctic air. Ladies and gentlemen, meet the cold. It's a cold hell, if you can imagine. It is the coldest it has been in decades. Il polar vortex, il vortice polare, beh, devo dire, lo abbiamo sperimentato l'anno scorso. Qua in America è stato un periodo invernale talmente drammatico, talmente freddo, generato appunto da questo vortice polare, da aver messo in ginocchio l'economia americana. Mi ricordo che molti dicevano: eh no, ma qui l'economia americana cade perché hanno sbagliato tutto dal punto di vista monetario, hanno ragione i tedeschi. E invece poi si è dimostrato che fu colpa del freddo. I cambiamenti climatici dominano, la necessità di confrontarci con l'ambiente, con le sfide che ci porta l'ambiente e che soprattutto ci porta l'inquinamento, che ci portano le emissioni. Ecco, l'ambiente dominerà secondo me il 2015. Siamo qui ad esplorare il 30 di dicembre, alla fine di un anno importante per l'ambiente, quello che potrebbe succedere, quello che potrebbe capitare nel 2015. Dunque è uno dei temi forti che vorrei analizzare guardando agli scenari importanti per l'anno che fra pochi giorni, fra due giorni, sarà qui con noi. Perché? Beh, perché ci sono stati degli sviluppi importanti. Abbiamo visto, voglio dire, lo vediamo tutti i giorni, che cosa succede dal punto di vista del cambiamento ambientale. Lo abbiamo visto a Genova, lo abbiamo visto in Asia, lo abbiamo visto, insomma, tifoni, uragani, insomma, succede di tutto. E succede di tutto perché si dice sta cambiando il clima, perché le calotte all'Antartico e dell'Artico piano piano si stanno sciogliendo e dunque si comincia a reagire. Devo dire, ero presente a Pechino quando c'è stato l'annuncio del presidente Barack Obama con il leader cinese Xi Jinping di un accordo molto importante. Un accordo molto importante perché la Cina finalmente ha accettato di ridurre le emissioni e lo ha fatto con un impegno, con una data. Diciamo, siamo lontani nel tempo perché si parla del 2030, però c'è questo impegno di stabilizzare le emissioni da qui ai prossimi 10 anni e dopodiché di cominciare a ridurle. Perché questo sviluppo è importante? Perché se la Cina, l'India, i grandi paesi che si stanno in industrializzando, restano fuori dagli accordi sull'ambiente, beh, si può fare poco. Dopodiché c'è stato un paio di settimane fa un incontro importante in Perù, si è fatto un altro passo in avanti, tutti i paesi hanno firmato un accordo e nel 2015, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, ci sarà un grande vertice sotto l'egida dell'ONU per cercare di chiudere un accordo definitivo e importante per proteggere questo nostro ambiente. Ecco, io con me ai microfoni di America 24, Jacopo Giliberto, che è un collega, un giornalista del Sole 24 Ore, grande inviato proprio in materia ambientale, grande esperto di ambiente, che tra l'altro ha lavorato anche al Ministero per l'Ambiente. Buongiorno Jacopo. Buongiorno, un saluto a tutti e anticipo subito un augurio per l'anno nuovo. Esatto, l'anno nuovo che arriva. Ma allora fammi ti chiedere subito, Jacopo, ma questo anno nuovo che arriva per l'ambiente promette bene o promette male? Ma promette abbastanza bene. Questo summit di cui hai parlato, che ci sarà tra quasi un anno, il prossimo inverno, a Parigi, dovrebbe essere forse non quello decisivo. Sappiamo bene che i summit in genere sono ricchi di tante parole e pochi contenuti. Potrebbe essere molto interessante, ma la cosa più interessante è, come dicevi, questo accordo che abbiamo visto in novembre, attorno a metà novembre, tra Stati Uniti e Cina sull'impegno reciproco di ridurre le emissioni. Ti ricordo che gli Stati Uniti non hanno mai ratificato il protocollo di Kyoto, nonostante diversi presidenti abbiano provato a farlo approvare dai loro senati, e la Cina, che ha ratificato il protocollo, in realtà dal punto di vista della riduzione delle emissioni è sempre stata molto molto fredda. Ecco Jacopo, tu hai parlato del protocollo di Kyoto. Io ricordo quando ci incontrammo a Copenaghen, e parliamo credo di 4 anni fa, quando ci fu quello che doveva essere un grande vertice dell'ambiente. Kyoto poi è andato come è andato, Copenaghen ha prodotto soltanto dei risultati parziali, a questo punto c'è Parigi. Tu sei un po' prudente, ma diciamo che l'ottimismo in qualche modo c'è, perché questo incontro che c'è stato in Perù ha creato creato dei presupposti perché tutti i paesi vadano a sottoscrivere una riduzione delle emissioni, che poi è la cosa importante. Ma più che altro è un accordo economico sostanzialmente di quanto i paesi ricchi dovranno finanziare la riduzione delle emissioni nei paesi poveri. Però mi sembra che alla fine, dopo queste giornate un po' difficili, tutti i paesi hanno firmato un impegno a ridurre le emissioni, o sbaglio? A ridurre le emissioni con gradualità e sempre sotto questa grande cappa dell'intesa tra Stati Uniti e Cina, che sarà la prima grande intesa sui grandi produttori di anidride carbonica. E sarà una grandissima macchina potentissima che cambierà probabilmente la faccia del nostro modo di produrre e di consumare. Ecco, due elementi. Il primo elemento è che ho letto da qualche parte che in realtà gli accordi, così come si vanno costruendo, consentiranno una riduzione dell'aumento di temperatura che si sta già verificando soltanto del 50% rispetto a quello che dovremmo avere per stabilizzare la situazione dell'Antartide e del Polo Nord. Ti risulta? Il famoso dibattito tra i 2 gradi e 4 gradi, di quanto salirà la temperatura e di quanto noi riusciremo a contenere questa salita di temperatura, appunto tra i 2 e i 4 gradi. Ma c'è un pericolo vicino che il livello del mare si alzi davvero, come molti ci dicono, e vada a coprire il lungomare di Genova, per esempio, che non avrà più soltanto queste piogge torrenziali, ma magari il mare che avanza? O faccia scomparire Venezia, certo, sarebbero delle tragedie. È una cosa che vedranno i nostri, se va male, vedranno i nostri nipoti, nemmeno i nostri figli la vedranno. Quindi per ora possiamo stare tranquilli sul fronte. Una curiosità, vorrei sapere cosa ne pensi di un evento che si è verificato proprio in Perù, e cioè che Greenpeace, che è un grande movimento ambientalista, a un certo punto ha deciso di fare una furbata, e cioè ha mandato un suo gruppetto in questo territorio che era assolutamente off limits, dove ci sono quei bellissimi disegni che si vedono dall'alto, su cui si sono create misteriose leggende. In particolare c'era un disegno stilizzato di un colibrì, e questi hanno marciato in fila indiana, sono arrivati lì vicino al colibrì e hanno messo delle scritte in giallo di protesta per dire fate di più per l'ambiente. Ecco, così facendo hanno scatenato le ire del governo peruviano. Perché? Perché hanno creato un enorme danno ambientale. A loro volta lo hanno creato per cercare di proteggere l'ambiente. Ecco, quanto è grave, primo, questa cosa per Greenpeace, e fino a che punto possiamo arrivare per cercare di proteggere l'ambiente ma senza arrivare a questi estremi in cui poi lo danneggi in modo irreparabile? È stata un'azione di grande visibilità e di grande riuscita da un certo punto di vista, ma non hanno pensato di fare... Scusa, hai detto la cosa giusta, non hanno pensato, ma un movimento come Greenpeace uno immagina che sappia che se non si può andare a fare una cosa è perché ci sono dei rischi ambientali, o no? Hanno sottovalutato gli effetti della loro azione, evidentemente. Però sanno chiedere scusa, è una cosa che non tutte le associazioni sanno fare. L'hanno chiesto di fronte al mondo. Sì, questo in effetti è vero. Senti, ecco Jacopo, energia alternativa, possibilità di introduzioni tecnologiche. Noi guardiamo a un futuro, ma non teniamo mai conto di quello che nel frattempo può capitare. Ecco, tu vedi degli sviluppi, non dico da qui all'anno prossimo, ma da quei prossimi anni, che possano veramente cambiare le cose e trovare magari delle soluzioni ai nostri problemi? Io penso che gli sviluppi siano già dietro l'angolo, probabilmente sono già disponibili. Secondo me la tecnologia e i mercati saranno il vero traino del cambiamento ambientale del nostro modo di consumare e di produrre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2015, e siamo, come dire, a cavallo del Natale e a cavallo dell'anno nuovo che arriva, e dunque, restando in spirito di festività, vi propongo una canzone tipica, grande canzone americana, che unisce lo spirito di queste due grandi feste. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Da Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani, ultimo giorno dell'anno.